Alcuni credenti leggono pochissimo l'Antico Testamento, anzi certi non lo leggono per niente, perché non lo ritengono cristiano. Eppure, prefiggendosi di leggere la Bibbia nell'arco di un anno, una persona è costretta per 8 mesi a leggere l'Antico Testamento. La lettura del Nuovo Testamento lo impegnerà solo per i restanti 4 mesi. La testimonianza degli Apostoli sulla necessità di studiare l'Antico Testamento è decisiva. Leggiamo le parole che Paolo rivolse a Timoteo, 2 Timoteo 3, 14-17. Tu però persevera nelle cose che hai imparato e nelle quali sei stato confermato, sapendo da chi le hai imparate, e che sin da bambino hai conosciuto le sacre scritture, le quali ti possono rendere savio a salvezza per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. Tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Paolo, scrivendo a Timoteo, testimonia la sua fede fondata sulle scritture. La locuzione tutta la scrittura, alla quale si riferiva Paolo, erano i 39 libri degli Ebrei, l'Antico Testamento. Per i primi cristiani essa era sufficiente per educare tutti coloro che volevano fare la volontà di Dio, per essere istruiti, corretti e diventare uomini di Dio completi. E così anche per noi? Or queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive, come lo furono costoro. Or tutte queste cose avvennero loro come esempio, e sono scritte per nostro avvertimento, per noi, che ci troviamo alla fine dell'età, 1 Corinzi 10, 6, 11. Paolo ha narrato alcuni avvenimenti occorsi al popolo di Israele. Essi sono descritti nell'Antico Testamento per ricordarci che esso è stato scritto anche per noi, perché ci votassimo alla santità, per non subire le stesse conseguenze del popolo di Israele. Trascurare la lettura dell'Antico Testamento significa privarci di grandi benedizioni e limitare in grandissima misura la nostra comprensione del volere e dell'opera di Yahweh. In sintesi, descrivo le ragioni per le quali occorre leggere e meditare l'Antico Testamento. 1. Perché è parola di Dio. 2. Per una ragione di cronologia. 3. Per una ragione dottrinale. 4. Perché testimonia la messianicità di Gesù. 5. Perché serve per comprendere il nuovo. 6. Perché gli insegnamenti spirituali non decadono. 7. Perché contiene profezie ancora inadempiute. I primi cristiani, nei loro scritti, si rifacevano spesso ad episodi descritti nell'Antico Testamento. Paolo ricorda il fatto di Mosè che si copriva il viso col velo, 2 Corinzi 3,13. L'autore della lettera agli Ebrei cita Melchisedec almeno una decina di volte, Ebrei 7,1. Giuda richiama alla mente dei suoi lettori la triste fine delle città di Sodoma e Gomorra, 1,7. Nella prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 10, l'Apostolo Paolo descrive diffusamente alcuni eventi del popolo di Israele, che troviamo narrati nella Torah o Pentateuco. I primi cristiani evidentemente conoscevano questi episodi e Paolo coglie lo spunto per ammonire i credenti affinché non provocassero Gesù Cristo, come fecero gli ebrei durante i 40 anni nel deserto. Forse per noi questo accostamento suona strano, ma evidentemente i primi cristiani sapevano bene che Yahweh è Gesù Cristo. Attualmente, invece, per noi non è più così. Leggiamo il brano in merito. Ora, fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare, tutti furono battezzati per Mosè nella nuvola e nel mare, tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale e tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva, or quella roccia era Cristo. Ma Dio non gradì la maggior parte di loro, infatti furono abbattuti nel deserto, or queste cose avvennero come esempi per noi, affinché non desideriamo cose malvagie come essi fecero, e affinché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto. Il popolo si sedette per mangiare e per bere, e poi si alzò per divertirsi. E non fornichiamo, come alcuni di loro fornicarono, per cui ne caddero in un giorno 23.000. e non tentiamo Cristo come alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti. 1 Corinzi 10, 1 a 9. Gli episodi relativi al popolo di Israele, descritti da Paolo, si trovano nei libri dell'Esodo e dei Numeri. Spesso l'interpretazione che si fa di questo testo è simbolica, poiché Paolo parla di un cibo spirituale, di una bevanda spirituale, di una roccia spirituale che è Cristo. Interpretare simbolicamente un testo può essere legittimo. Nel Salmo 91 leggiamo che chi confida nell'Altissimo sarà coperto dalle penne di Dio e sotto alle sue ali troverà rifugio. L'immagine evocata dal salmista chiaramente serve per far comprendere che Dio proteggerà coloro che cercano riparo in Lui. Il lettore non si ferma al significato letterale, ma coglie il messaggio simbolico che l'immagine vuole evocare. Così, facendo una lettura simbolica degli episodi citati da Paolo, il lettore è portato non tanto a considerare gli avvenimenti descritti nel brano, quanto a cogliere, più che altro, la morale suggerita dagli avvenimenti. In tal modo il lettore non afferra ciò che Paolo vuole trasmettere. Facendo una lettura metaforica di questo brano, noi siamo costretti ad interpretare gli avvenimenti in senso simbolico. Questo non è possibile, perché gli avvenimenti descritti da Paolo sono successi letteralmente come descritti. Gli israeliti mangiarono veramente la manna, bevvero veramente dell'acqua scaturita dalla roccia. Dobbiamo quindi interpretare tutto il brano in senso letterale. Il popolo di Israele mangiò del pane vero e proprio, definito spirituale. Esso bevve dell'acqua vera e propria, definita spirituale. Era infine seguito da una roccia vera e propria, definita spirituale. Per la nostra cultura lo spirituale si contrappone al materiale. Noi definiamo l'amore spirituale. È un tavolo materiale. Anima, la parte spirituale dell'uomo, corpo, la parte materiale. Lo spirituale è, per definizione, etereo, incorporeo. Il materiale è tutto ciò che impressiona i nostri cinque sensi. Così, considerando gli avvenimenti descritti da Paolo in senso allegorico, noi traiamo dalla lettura solo un insegnamento morale, tralasciando i fatti successi. Questo è sbagliato, perché tutto ciò che Paolo ha descritto è successo letteralmente. La manna sfamò fisicamente gli israeliti e, così, l'acqua dissetò il popolo di Israele. Paolo quindi stava trasmettendo qualcosa di molto più importante di un mero insegnamento morale. Poiché gli episodi citati da Paolo sono realmente avvenuti, non è corretto pensare che l'apostolo volesse trasmettere delle verità morali trascurandone il presupposto storico. Anzi, le verità morali non possono essere comprese rettamente se prima non si sono compresi gli episodi realmente accaduti che le sottintendono. Interpretando erroneamente la realtà, non posso comprenderne in modo corretto l'insegnamento spirituale. Se nella parabola del seminatore vedo non un uomo che semina, ma uno che scava una fossa per piantarvi il seme, non comprendo come il seme possa cadere in vari posti. L'interpretazione spirituale della parabola quindi risentirà gravemente di questo mio errore. Ne consegue quanto definire esattamente il significato del termine spirituale sia indispensabile per non collocarlo erroneamente nell'ambito di ciò che è immateriale e simbolico. La teologia dell'Apostolo Paolo non lascia dubbi. Ciò che è spirituale appartiene alla materia. Mettendo in contrapposizione l'uomo naturale o carnale con l'uomo spirituale, l'Apostolo Paolo si riferisce a persone vive e vegete fisicamente. La differenza non sta nella sostanza, nella materialità o meno, ma agli ambiti d'appartenenza. L'uomo carnale è colui che vive e agisce sotto l'impulso della natura umana corrotta. L'uomo spirituale è colui che è condotto dallo Spirito Santo. L'uomo carnale è colui che non ha subito una trasformazione spirituale. L'uomo spirituale è colui che è nato da alto, che è passato dalla morte alla vita. L'uomo carnale appartiene a se stesso, l'uomo spirituale appartiene allo spirito ed è da questo condotto. Ciò che è spirituale non ha quindi a che fare con il simbolo, con ciò che è quindi figurativo. Anche in greco i due termini differiscono. L'aggettivo pneumaticos indica espressamente ciò che è proprio dello spirito, ciò che è condotto dallo spirito. Il sostantivo typos significa invece forma, figura, immagine. Dobbiamo quindi interpretare il cibo e l'acqua spirituali degli israeliti non in senso simbolico, bensì come cose reali, derivanti da un intervento di Dio. Il popolo di Dio ha soggiornato nel deserto. Per 40 anni, trovando dell'acqua amara, attraversato il Giordano e si trovarono 12 sorgenti e 70 palme. Mangiarono dei cibi, ma non erano spirituali, perché erano alla portata di tutti e non dovuti ad un intervento divino. Tutto questo è accettabile, ma come comprendere l'affermazione di Paolo che la roccia spirituale era Cristo? Una roccia non è forse, come definisce il vocabolario, un aggregato minerale che costituisce la parte più dura e coerente della crosta terrestre? Riferita a Cristo, una tale espressione non deve essere intesa in senso simbolico. Paolo stava scrivendo a dei credenti che conoscevano le scritture, la Torah. I Corinzi sapevano che, nel capitolo 32 del libro del Deuteronomio, Yahweh Dio veniva chiamato roccia. La parola roccia, in quell'occasione, non era tanto un attributo, ma un sostantivo. Esso costituiva un nome attribuito a Yahweh stesso. Infatti, anche la LXX traduce roccia con Dio o con Signore. Non soltanto nei versetti citati, ma in tutto il cantico, al posto di roccia, i LXX traducono i nomi del Dio di Israele. Una dimostrazione che la parola roccia non sia un attributo è data dal fatto che i traduttori l'hanno scritta con la R maiuscola. Deuteronomio 32, 4, 13, 15, 18, 30, 31. Affermando che la roccia spirituale era Cristo, Paolo voleva intendere che nel deserto, con il popolo di Israele, vi era Cristo. In effetti, Cristo era pneumaticos, cioè era una realtà o una manifestazione della sua attività. La roccia spirituale che li accompagnava era dunque la presenza corporea di Cristo. Ecco riportato il commento di Enrico Bosio riguardo al passo di 1 Corinzi capitolo 10. Gli israeliti sono stati provveduti d'acqua e che dovettero questo alle cure costanti di colui che Mosè stesso chiamò la roccia della salvezza di Israele, Deuteronomio 32, 15, 18, conf. Isaia 30, 29, 26, 4, e che Paolo nomina addirittura Cristo. Difatti, secondo lui, la persona divina che accompagnava il popolo nel deserto, l'angelo della faccia, l'angelo di Dio del patto, l'Eterno, l'autore delle teofanie non era altri che il Figlio di Dio, il quale prima di incarnarsi presiedeva all'economia della salvazione. Egli era la vera roccia spirituale soprannaturale che seguitava Israele e provvedeva ai suoi bisogni. Enrico Bosio, le epistole ai Romani, primo secondo Corinzi, Claudiana. Fa coro Leon Morris, citando Conzelman, l'uso di era indica una preesistenza reale. Leon Morris, la prima epistola di Paolo, ai Corinzi edizioni GBU. Il professore di critica biblica F.F. Bruce, 1910-1991, commenta così il nostro passo. Per lui Paolo, la roccia materiale, era il simbolo di una realtà spirituale, la realtà spirituale della presenza di Cristo. La roccia, dice, era Cristo. Era Cristo, in altre parole, che seguiva il suo popolo nel deserto. Gesù ieri, oggi e domani. Per i primi cristiani, l'identificazione di Cristo con Yahweh nell'Antico Testamento era cosa ovvia. Se per noi non lo è, ciò è dovuto certamente ad una mancanza di conoscenza derivante da un'errata trasmissione della fede o da una nostra insufficiente percezione di essa. Non solo. Anche i traduttori della Bibbia sono colpevoli, perché non sempre hanno tradotto correttamente il testo greco. La traduzione inesatta, al versetto 9 del capitolo 10 di 1 Corinzi, versione nuova, riveduta, offusca la presenza di Cristo nella Torah. La nuova riveduta traduce così il testo di 1 Corinzi 10, 9, non tentiamo il Signore, come alcuni di loro lo tentarono, e perirono, morsi dai serpenti. La nuova Diodati invece fedele al greco rende, e non tentiamo Cristo, come alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti. Tradurre Signore al posto di Cristo non trasmette esattamente. Il sostantivo Signore, che da molti può essere considerato aggettivo, induce nel lettore ad avere un'idea vaga di Dio. Usando invece il sostantivo Cristo, comprendiamo inequivocabilmente che gli ebrei nel deserto tentarono proprio la persona di Cristo e non Dio, inteso nella sua pluralità, come Theos o Elohim. Evidentemente il traduttore non ha afferrato l'importanza di questa precisazione. Ciò induce a pensare che molti, come lui, non abbiano percepito che Cristo fosse presente corporalmente nell'Antico Testamento. Anche la traduzione di un'affermazione dell'Apostolo Giuda nella relativa lettera mette in evidenza i limiti dei traduttori. Or voglio ricordare a voi, che già conoscevate tutto questo, che il Signore, dopo aver salvato il suo popolo dal paese di Egitto, in seguito fece perire quelli che non credettero. Giuda 5. I testi più antichi, risalenti al V secolo, al posto di Signore, portano scritto Gesù, Cristo, Dio, Cristo, Dio. I codici Vaticano e Alessandrino, e molte versioni antiche, riportano Gesù salvò il popolo dall'Egitto. Queste versioni mettono in evidenza che è stato Cristo a salvare il popolo dell'Eterno dall'Egitto, e non un vago Signore. Una traduzione corretta di questi passi ci informa, al di là di ogni dubbio, che Cristo è l'autore materiale della liberazione del popolo di Israele. Questa coscienza della presenza di Gesù nell'Antico Testamento faceva sì che i primi cristiani ebrei scrivessero in un modo che a noi potrebbe risultare strano. Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori di Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa, Ebrei 11, 24-26. La domanda più ovvia è come ha fatto Mosè a stimare il vituperio di Cristo maggiore delle ricchezze d'Egitto, se non lo conosceva. E anche questa è un'espressione da interpretarsi in senso simbolico, o l'autore della lettera voleva veramente intendere che Mosè conosceva Cristo. Alla luce di quanto abbiamo considerato, Mosè scelse veramente di essere disprezzato per amor del Cristo, che vedeva e con il quale parlava a Esodo 33:11, anziché godere i fugaci piaceri terreni. Essendo dunque la suddetta roccia spirituale, la persona reale corporea di Cristo proveniente dall'alto, consegue che l'uomo spirituale sia dunque il credente nato di nuovo, o da alto, e condotto dallo Spirito. Quest'aspetto getta luce su di un equivoco intrinseco al nostro modo di parlare. Un credente che compia qualcosa di straordinario come dei miracoli, o un gesto insolito di perdono d'amore solitamente, viene definito un uomo spirituale. Riteniamo un uomo spirituale, colui che non abbandona la comune adunanza, che legge con assiduità la Bibbia, che prega sovente e regolarmente, che si appresta a servire la Chiesa. L'uomo spirituale è colui che si comporta bene. Egli è tale in base alla sua condotta. Con questa valutazione abbiamo spostato l'obiettivo dall'essere al fare. L'uomo spirituale non è colui che opera, ma colui che è. Colui che è nato di nuovo e vive, condotto dallo Spirito Santo. Di conseguenza, l'uomo spirituale non agisce condotto dai propri istinti, dalla propria emotività, dalla natura umana, che essendo corrotta non può piacere a Dio, ma egli è sottoposto all'azione dello Spirito di Cristo, non contrastando e non contristando lo Spirito Santo. L'uomo spirituale è uno pneumaticos, colui che vive in questo mondo, che ha contatto con la realtà materiale di questa vita, ma l'affronta con la mente e lo sguardo e ti tristo. Con questa prospettiva, un giorno in cielo cadranno tante teste e tanti castelli in aria. Molte persone, che saranno state lodate e applaudite su questa terra nel campo della fede, si vedranno rinnegate da Cristo, perché ciò che è eccelso davanti agli uomini è in abominio davanti a Dio. Se si credesse a questa sola verità, i credenti sarebbero più schivi nei confronti dell'approvazione della folla. Non solo. Molti di coloro che oggi si professano cristiani verranno svergognati nel giorno di Cristo per aver compiuto opere di gran volume, paglia, fieno, legno, non prodotte dallo Spirito Santo. L'uomo spirituale lascia che lo spirito di vita agisca quotidianamente portando i frutti dell'amore, della pace, della gioia, della fedeltà, della mansuetudine, dell'autocontrollo, mentre l'uomo carnale cerca di piacere a Dio con i propri sforzi, mediante le sue opere. I frutti sono la naturale conseguenza della vita che scorre in un individuo, le opere sono il risultato dello sforzo umano. Buona la riflessione di Watchman Nee. Molti cristiani hanno imparato a considerare le cose del cielo come qualcosa da raggiungere, perciò per loro il cristianesimo è uno sforzo. Cercano di essere quello che non sono e di fare quello che non possono fare. Combattono per non amare il mondo, perché in realtà nel cuore lo amano. Si sforzano di essere umili perché nel cuore sono molto sicuri di sé. Sono pochi coloro che sono condotti dallo Spirito. Se per i cristiani fosse la regola essere condotti dalla persona dello Spirito Santo, essi sperimenterebbero una vita vittoriosa e le chiese realizzerebbero un'abbondanza di gioia e di comunione. Dobbiamo chinare il capo davanti alla dura realtà. Non essendo costretti da persecuzione e da altre contingenze negative, il credente singolo e le chiese mostrano il loro volto naturale, carnale. Si curano gli aspetti esteriori, preghiere, lettura della Bibbia, riunioni, ma si rinnega la potenza spirituale. Vi è molta forma e pochissima sostanza. Si è imparato a condursi da cristiani, senza però esserlo. Affermiamo di essere in comunione con Dio, pur camminando nelle tenebre. Non ci rendiamo conto che la parola di Dio ci dichiara dei bugiardi, perché non è possibile amare Dio, che non vediamo, e non amare il prossimo, che ci sta attorno. Perché il credente e le chiese siano condotte dallo Spirito, occorre che entrambi confessino la loro mancanza di comunione con Dio. Siamo generalmente disposti a dichiarare tutto, ma non questo, e camminino nella luce, cioè nell'amore. Solo così i cristiani avranno comunione gli uni con gli altri. La roccia spirituale è la matrice. L'uomo spirituale, per definirsi tale, deve essere a immagine della roccia. Gesù Cristo ha vissuto tra gli uomini come uomo. Ha avuto compassione verso gli ignoranti e parole dure per coloro che si reputavano sapienti. Ha perdonato chi si riconosceva peccatore mancante. È stato intransigente con chi pensava ad essere autosufficiente. Ha salvato gli umili. È stato inesorabile con gli orgogliosi. Ha servito, per dare un esempio di cosa fosse amore. Ha imposto, per stroncare personalità forti. Ha risposto alle domande oneste. Non ha degnato di una risposta a chi voleva ingannarlo. È stato pietoso verso l'uomo pio, retto verso l'uomo retto, puro con i puri, ma astuto con il perverso. Questo modo di procedere, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, ha prodotto confusione in chi voleva classificarlo ed etichettarlo. Così è di chi sia condotto dallo Spirito Santo. Lo Spirito soffia dove vuole, e tu ne odi la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è per chiunque è nato dallo Spirito. L'uomo spirituale non ha il futuro programmato, non ha atteggiamenti e discorsi preconfezionati, non si muove sempre in accordo con i canoni sociali, non pretende di essere compreso, non cerca di piacere agli uomini, la sua grande aspirazione è quella di essere completamente sottomesso all'azione dello Spirito Santo, per piacere a colui che lo ha comprato a caro prezzo. In definitiva, l'uomo spirituale non si comporta in modo spirituale, mistico, ascetico. Egli è colui che ha compreso che la sua natura è malvagia e, avendone una terribile paura, si abbandona, senza condizioni, alla voce della persona dello Spirito di Dio, non contristandola né spegnendola. Questa è la vita normale del cristiano. Ricevuto il 17 marzo 2008 per Proiezioni Culturali, Controcorrente, www.acroce.altervista.org. L'abuso del termine spirituale. Rubrica Cultura Biblica N, 2 febbraio 2008. Di Fernando De Angelis. Le note sono di Nicola Martella. 1. Il Nuovo Testamento Roduzione. La Chiesa ha un fondatore Gesù e un solo Padre. Il Padre di Gesù è Padre nostro. G.V. 20, 17. Se si vogliono proprio individuare dei padri della Chiesa umani, bisognerebbe vederli negli Apostoli, con i loro scritti raccolti nel Nuovo Testamento. In effetti, però, i cosiddetti padri della Chiesa, Origene, Agostino e altri, qualcosa l'hanno generato, essendo stati loro a trasformare gradualmente la Chiesa neotestamentaria nella Chiesa costantiniana, partendo così da una Chiesa radicata nella Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, e nell'ebraismo si è arrivati a una teologia adattatasi alla filosofia greca. L'operazione è già insita nel Nuovo Testamento, essendoci pervenuti in lingua greca, e l'adattamento avrebbe dovuto restare entro quei limiti, ma divenendo la Chiesa di massa, si è poi andati al di là della parola di Dio. Noi evangelici tendiamo a dare all'operazione una valenza solo negativa, ma considerato che veniamo da Lutero e da Calvino, nonostante certi nostri dissensi, e considerato che Lutero e Calvino venivano dalla tradizione cattolica, volenti o nolenti la nostra teologia è in qualche modo passata anche per Roma. Uno dei segni di questo passaggio è l'uso che facciamo della parola spirituale, un uso tipico della mentalità greca che concepiva il corpo come prigione dell'anima, e contrario a quella ebraica, nella quale l'essere umano è un'unione intima fra polvere della terra e soffio divino. DN 2.7. Nel Nuovo Testamento l'accento non è posto, alla greca, su un paradiso nel quale si sta beati con la sola anima, ma sul desiderio, ebraico, d'una risurrezione che ci faccia stare col risorto Gesù, in un regno molto concreto. P2 esempio MT 27-52, LC 11, 31-32, 14-14, GV 5-29, 6-39-40, AT 1-22, 2-32. 3.15, 4.2.33, 5.30, 17.3.1, 8.22. Il significantico testamento di spirituale. Il significato greco di spirituale è così diffuso, profondo e funesto che bisognerebbe lanciare una vasta e protratta controffensiva. Noi, nel nostro piccolo, ci limitiamo a riproporre quanto è sinteticamente scritto in un libro a cura di Nicola Martella 1. Asterisco grado, asterisco grado, asterisco grado, asterisco grado, asterisco grado. Il significato che si dà a certe parole esprime già una serie di scelte dottrinali fatte. E spesso è più facile convincere a cambiare una dottrina che far cessare l'uso di quelle parole che la proclamano implicitamente. 2. È perciò necessario soffermarci su un certo linguaggio usato spesso in modo inadeguato, se non addirittura non biblico. 2.1. Spirituale non è con Nuovo Testamento rapposto a Antico Testamento eriale. Alla parola spirituale si dà spesso il significato di non materiale, non corporeo, non reale. Dio è spirito, G.V. 4.24, è un brano che viene portato per dimostrare l'incorporeità di Dio. Non entriamo nella questione della corporeità di Dio, ma se la frase significa Dio è incorporeo, il significato di ciò che segue diviene e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino senza corpo, il che è assurdo e cozza violentemente con l'insieme della rivelazione e con l'incarnato Gesù, il Messia. Il disprezzo per il corpo è un'eredità platonica, introdotta nella cristianità da alcuni cosiddetti padri della Chiesa cattolica e ortodossa. Dimostriamo di non esserci completamente liberati da tale influenza quando usiamo la parola spirituale in modo sbagliato. È vero che uno spirito non ha un corpo. uno ripreso da Daniele Bencascio, Nicola Martella, pericoli da evitare nell'interpretazione, in Nicola Martella, a cura di Escatologia Biblica Essenziale, Escatologia 1, punto grado a grado croce, Roma 2007, pp. 140-143. 2. Abbiamo già visto al riguardo l'uso improprio di termini come profezia, profetico, profetizzare, eccetera. CFR. Nicola Martella, a cura di Che cos è la profezia? Escatologia biblica essenziale, Escatologia 1, punto grado a grado croce, Roma 2007, pp. Un altro luogo comune è, ad esempio, la mancanza di distinzione fra peccato e impurità. Come il nostro LC 24, 39-3, ed è pure vero che spirito e corpo sono elementi distinti nell'uomo, 2 terasecondi. 5, 23. Ma ciò non giustifica la contrapposizione spirituale-materiale. Divenire spirituale, 1 Cor 1, 15, 3, 1. Infatti, significa anche glorificare Dio nel nostro corpo, 1 Cor 6, 20. Ci viene ingiunto di conservare irreprensibile, per la venuta del Signor nostro Gesù, il Messia, l'intero essere, in tutte le sue funzioni fisiche, psichiche e spirituali, 1 terasecondo 5, 23. Essere spirituale, in conclusione, non può essere interpretato come un invito a non tener conto del corpo, ma piuttosto a come essere in sintonia con lo Spirito di Dio. 2.2. Spirituale non è con Nuovo Testamento rapposto a Antico Testamento URALE o apolitico. Anche la diffusa contrapposizione naturale spirituale va ponderata. Alla fine della creazione Dio vide che tutto era molto buono. Gn 1.31. Adamo, prima della caduta, non aveva nessun impedimento o ostacolo a essere spirituale, né nel proprio essere, né nella natura circostante. Perciò lo spirituale si può contrapporre a una natura degradata dal peccato, non alla natura in sé. Contrapporre spirituale a politico è un altro errore frequente. Nel regno del Messia sarà tutto spirituale, e alcuni re di Israele governarono spiritualmente. Anche qui perciò spirituale può essere contrapposto solo a un potere politico corrotto, ma la dimensione politica non è di per sé contrapposta a quella spirituale. 2.3. Spirituale non significa allegorico o simbolico. Una interpretazione spirituale non significa rendere tutto allegorico o simbolico. Chi usa il termine spirituale nel senso di allegorico o simbolico arriva all'assurdo di non interpretare spiritualmente la maggior parte della Bibbia. 4. 2.4. Spirituale SICO Nuovo Testamento rappone a peccaminoso. Spirituale, in definitiva, si contrappone pienamente solo a peccaminoso. 5. Le altre contrapposizioni sono solo parziali e occasionali. Una visione distorta di ciò che è spirituale è un ostacolo a esserlo correttamente e realmente. Viceversa, a volte la distorsione del concetto viene difesa per giustificare una vita spiritualmente deviata. 2.5. Prudenza nell'uso della con Nuovo Testamento rapposizione celeste-terrestre. A questo punto è evidente che anche la contrapposizione celeste-terrestre va usata con parsimonia, e mettendo in chiaro che contrapposta a celeste è una terra corrotta detta mondo, non la terra in sé. Sappiamo che, per la retta dottrina, è centrale confessare Gesù il Messia venuto in carne, 1 GV 4.1. Le sbagliate contrapposizioni che abbiamo esaminato sono una nascosta erosione della dottrina dell'incarnazione e dell'unione, nel Messia, del celeste e del terrestre, dello spirituale e del corporeo. 3. In LC 24:39, Gesù non affermò che uno spirito non abbia un corpo, ma che non ha carne e ossa. Nella trascendenza, addirittura gli spiriti degli uomini hanno una consistenza tale da poter essere rivestiti. App 6:11. Paolo parlò di corpi celesti e corpi terrestri. 1 Cor 15:40. 4. Per l'approfondimento confronta in Nicola Martella, Manuale Teologico dell'Antico Testamento, Punto grado a grado croce, Roma. 2002, gli articoli. Allegoria, PT 82S, interpretazione allegorica, PT 192S, interpretazione deduttiva, P 193. 5. Nel Nuovo Testamento spirituale è contrapposto specialmente a carnale, RM 7:14, 1 Cor 3, 1, e, nel testo greco, a psichico, 1 Cor 2, 14, 15, 44.46. È tradotto erroneamente con naturale, ma intende psichico, animico. Questo modo sbagliato di tradurre corrobora la contrapposizione indebita fra spirituale e naturale di cui si è parlato sopra. Altro contributo di C.S. Lewis. La mano nuda di Dio, edizioni G.B.U., appendice A, sulle parole spirito e spirituale, pag. 194. Ottobre 2001, Ellero.